Ciao, Rav. Ciao, Gliucci. C'hai la faccia strappata, Rav? Strappatissima. Tu, Seb? Anch'io. Ti piace Sanna? Sanna, mi piace Sanna, sì. Sì? Ti piace davvero? Sì. Bene. E allora, Miolo? Da come? E tu, Remy? Non riesco più a smettere. Di fare cosa, Remy? Strapparmi la faccia. C'è la faccia strappatissima. E chi è? È una cosa incredibile. Di chi è lei? Incredibile. Quella? E quella chi era? Quella chi era?